falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. È il 2 marzo 1991, una folla si raduna in Rue Verneuil, nel quartiere chic di Saint-Germain a Parigi. Molti sono in lacrime, altri le nascondono dietro agli occhiali scuri, in tanti appoggiano pacchetti di gitan contro il portone di una casa, la casa in cui nella notte è morto a causa della sua quinta e ultima crisi cardiaca Serge Gainsbourg, 62 anni, l'ultimo dandy francese. Cioè, se uno mi chiedesse in chi avresti voluto reincarnarti, al di là del fatto che ci sto benissimo nei miei panni, però se avessi dovuto sceglierne uno, avrei scelto probabilmente lui, l'icona di un mondo notturno che molti avrebbero voluto condividere e che pochissimi avrebbero avuto la forza di sostenere, perché stiamo parlando di un uomo che viaggiava a 80 gitan al giorno e una bottiglia di gin, con la voglia di scrivere una delle storie più affascinanti degli ultimi anni, la storia di se stesso, un uomo che conosce i suoi limiti, come diceva lui, ed è per questo che ha voluto andare al di là. La mia vita è una trilogia: il tabacco, l'alcol e le donne. Una trilogia che si snoda lungo un cammino che parte in salita e che prosegue e si inoltra negli anni più densi e interessanti della cultura contemporanea francese, perché sono gli anni 50, gli anni dei poeti malinconici come Boris Vian, gli scintillanti anni 60, quelli di Brigitte Bardot che arriva dalla Costa Azzurra con la pelle dorata dal sole, gli anni 70, audaci, chiassosi, fino ad arrivare agli anni 80 e alle provocazioni in diretta TV. E Gainsbourg ha attraversato tutte queste epoche, imponendo il suo stile, reinventando il concetto dell'artista che non riesce a stare dietro a un solo genere. Avete capito perché mi piace? Lui ha alzato sempre l'asticella di quello che era permesso, sempre più in alto. È arrivato a diventare l'icona di tutto quello che pensiamo sia la Francia, cioè l'eleganza, la sfrontatezza, la presunzione e soprattutto lo charme del grande seduttore, quasi un marchio riconosciuto da tutti, primo tra tutti anche dai pubblicitari come Frédéric Beigbeder. Era un marchio ed era un dandy. E come tutti i dandy era uno che faceva della sua vita un'opera d'arte, che si trasformava in uno status con il suo look, che ha saputo sfruttare come fosse un modello. E dire che Serge Gainsbourg è quanto c'è di più lontano da un modello, era proprio brutto, aveva la testa a forma di cavolo, come diceva lui stesso, il nasone, gli occhi sporgenti, le orecchie a sventola e una grande bocca carnosa. E lui probabilmente è afflitto per tutta la vita dal sentimento della sua bruttezza, si sente timido e insicuro, eppure proprio la bruttezza lo rende desideroso di sedurre, di mostrare a tutti che il suo cervello è la sua vera arma, molto più affilata di qualsiasi bel naso, di qualsiasi bel fisico e di qualsiasi tartaruga. Il risultato è un mix di spavalderia, di pudicizia che sorprendeva le persone, però era ben noto ai suoi amici più stretti. Gainsbourg era un provocatore in pubblico ed eccessivamente timido e pudico nella vita. La sua timidezza non deriva solo dal suo aspetto fisico, c'è anche un'infanzia sconvolta dalla guerra, dal terrore delle persecuzioni contro gli ebrei come lui, perché il suo vero nome è Lucien Ginsburg, figlio di una coppia di ebrei russi. Lui vede la luce assieme a una sorella gemella il 2 aprile del 1928, per caso, perché la madre, dopo altri due figli, pensa che questa nuova gravidanza sia davvero un problema e già nella sala d'aspetto di uno studio di Pigalle per abortire. Quando ci ripensa, torna a casa dal marito Joseph, è un pianista che si esibisce nei locali della Parigi degli anni 20, e gli comunica che vuole dare alla luce questi due gemelli. E i genitori di Lucien sono ebrei fuggiti dalla Russia, dal comunismo, che si integrano perfettamente in Francia, e però poi arriva il governo Vichy, quello collaborazionista che pretende che tutti gli ebrei indossino la stella gialla, e quindi c'è un altro shock terribile. Già insicuro per il suo aspetto, adesso è costretto anche a esibire un simbolo che lo isola da tutti gli altri e lo costringe a fuggire da Parigi per sopravvivere. Per tutta la sua vita gli resterà questo senso di insicurezza e di precarietà, che gli fa dire frasi come quella: se fossi Dio potrei essere l'unico a non credere in me stesso. Écoute ma voix, écoute ma prière, écoute mon cœur qui bat, laisse-toi faire. Je t'en prie, ne sois pas farouche quand me vient l'eau à la bouche. Je te veux confiante, je te sens captive. Je te veux docile, je te sens craintive. Je t'en prie, ne sois pas farouche quand me vient l'eau à la bouche. Alla fine della guerra e con il ritorno a Parigi, il giovane Lucien, non ancora Serge, studente modello prima del conflitto, non ha più voglia di studiare, quindi abbandona il liceo prima della maturità per seguire la sua passione per la pittura, che racconta di aver avuto fin da piccolo. Gainsbourg ha iniziato la pittura a 13 anni, 41 anni fa, sempre a penna. Così si iscrive a un istituto d'arte, insieme alle gioie della pittura scopre anche quelle non meno piacevoli del sesso, grazie alla segretaria di uno scrittore e illustratore, Elisabeth Levinsky. Levinsky, un nome, una storia. La storia procede con reciproca soddisfazione, e poi lui va a militare, ed è una parentesi importante in questa storia, perché durante il militare Lucien scopre un altro dei suoi grandi amori, cioè l'alcol, uno dei componenti fondamentali della sua vita. Aveva iniziato a bere tantissimo quando era militare. Poiché era timido, aveva scoperto che se si aiutava con un po' di rosso riusciva a farsi degli amici. È un grande, però non provatele a casa queste cose. Lui intanto torna, ritrova la pittura, sposa Elisabeth nel 51. Vorrebbe diventare famoso come il pittore Francis Bacon, come i surrealisti che tanto ammira. Però la verità è che come pittore non ha abbastanza talento, quindi sono anni vaghi, vuoti, riempiti di lavoretti provvisori, con una vita che non ha ancora una direzione precisa. Lui non sa che diventerà uno dei simboli più amati e anche più detestati della Francia degli ultimi anni. Non ho idee, ho delle associazioni di parole, come i surrealisti. Mancanza di idee. Tutto nasconde un vuoto assoluto. Io sono sottovuoto. Il falco e il gabbiano. Stiamo parlando di Serge Gainsbourg, al secolo Lucien Ginsburg, che prima di diventare l'icona di un Maudit, un maledetto alla francese, però un maledetto venato di sfrontatezza e di pudore, a 30 anni ancora non sa bene cosa fare di se stesso. Lo aiuta il padre Joseph, pianista con una solida carriera nei locali di Parigi. Anche lui, Lucien, suona il pianoforte, ha imparato da solo da piccolo, e durante il militare ha imparato a suonare la chitarra. Quindi Joseph chiede sempre più spesso al figlio di sostituirlo la sera nei posti in cui si esibisce, e lui accetta e scopre un mondo dove si sente finalmente a suo agio, perché sono gli anni dell'esistenzialismo, della bohème, nei locali parigini. Lui incontra poeti come Boris Vian, Jacques Prévert, e le cantanti con il maglioncino nero e l'eyeliner, cioè l'occhio dipinto con la linea nera, fra tutte la meravigliosa Juliette Gréco. Improvvisamente scopre che in questo mondo la sua bruttezza non esiste più, la sua timidezza sparisce, e scopre di piacere alle donne. Non possiamo dire che avesse una brutta faccia, perché se diciamo così, allora spiegatemi come mai tutte le donne, e non quelle da poco, come Bardot, Deneuve, per non parlare di Jane Birkin, come hanno fatto? Non è vero. La storia è diversa, in realtà. Noi uomini pensiamo alle donne solo in un modo, siamo più convenzionali. Le donne sono più sottili nelle loro scelte, guardano all'anima e non solo alla cosmetica. Eh sì, è vero, per fortuna degli uomini, insomma, essere una persona intelligente e affascinante è molto più importante che aver passato 3 ore in palestra. Se passi 3 ore in palestra magari rimorchi qualche stupidotta, ma se vuoi grandi donne come Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, Jane Birkin, allora devi fare funzionare bene il tuo cervello. Evidentemente l'anima di Lucien, che sta per diventare Serge Gainsbourg, si mostra in tutto il suo splendore, visto che la moglie Elizabeth, esasperata, chiede il divorzio ed esce di scena poco male. Lui ormai è votato a questa nuova vita, si libera anche della sua vecchia identità, oltre che della moglie. Sceglie di chiamarsi Serge Gainsbourg. Il nome è forse un omaggio alle sue origini russe, il cognome è sicuramente un tributo al pittore inglese Thomas Gainsbourg. E il nuovo Gainsbourg inizia a scrivere canzoni per Julia Greco e altre cantanti, incoraggiato dai nuovi amici prova a esibirsi e ha una voce bella, profonda, le sue canzoni hanno testi intelligenti, ironici, pieni di un'umanità che descrive la vita che vede scorrere davanti a sé nelle notti passate per strada con gli amici. Amava appassionatamente la notte. L'ho visto scrivere le sue canzoni più belle nei fumi dell'alcol, all'alba, quando rimanevo a dormire da lui. Dopo qualche tempo trascorso a esibirsi nei locali, tra tutti il famoso Milord, dove aveva anche iniziato Charles Trenet, ottiene il suo primo contratto. Il risultato è un disco intitolato Du Chant à la Une, da cui viene estratta una canzone che parla di un bigliettaio del tram, Le Poinçonneurs de Lila, che diventa subito un successo, anche se l'album non vende un granché. E dans ce bouquin y a écrit que dégasse la coule douce à Miami, pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, pareil qu'il y a pas de sous-métier, moi je fais des trous dans les billets, je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des trous de seconde classe, des trous de première classe, je fais des petits trous, encore des petits trous. Al primo segue in breve tempo un nuovo disco intitolato semplicemente Album numero 2, sulla cui copertina campeggia una foto emblematica dell'autore in gessato grigio con la solita gitana in mano e su un tavolino un mazzo di rose rosse e una rivoltella. Sembra un vero gangster, ma un gangster di classe, in doppio petto. E lui ama giocare con questa immagine da maledetto. Se ne accorgono anche i produttori cinematografici che iniziano a dargli piccole parti dove invariabilmente recita la parte del cattivo. Con i film arrivano anche le colonne sonore. Lui ne scriverà più di 40 nella sua vita, tra le altre anche quella per il film Striptease, dove recita anche una giovanissima Nico, la meravigliosa cantante dei Velvet Underground, di cui abbiamo già parlato. Serge le fa incidere il brano principale, ma la voce di Nico è troppo particolare per lui e poi lui preferisce farlo reincidere a Julia Greco. Serge adora scrivere per le cantanti. Quando incontra la giovanissima France Gall fa la sua fortuna, perché insieme vincono il primo premio alla Eurovisione. Gainsbourg diventa così un autore riconosciuto da tutti. In studio era un essere pieno di charme. Sapeva come dirigere uno studio ed era piacevole stargli dietro. La loro è una collaborazione proficua che si interrompe quando France Gall, che era una ragazza piuttosto ingenua, scopre che la canzone Sucette à l'Ani, che sarebbe lecca lecca all'anice, nasconde un doppio senso abbastanza clamoroso. Diciamo un po' come gelato al cioccolato in italiano. Si parla di una fellazio. Insomma, la cantante scopre questo doppio senso e naturalmente che è una cosa molto lontana dalla sua linea editoriale. Brigitte Bardot invece è di tutt'altra pasta. Quando incontra Serge Gainsbourg, l'attrice è al culmine del suo successo. È bellissima, sicura di sé, vorace, imprevedibile, non ha nessuno dei pudori della povera France Gall. Nonostante sia sposata con il ricco playboy tedesco Gunther Sachs, non esita a ingaggiare una relazione con Gainsbourg, anche lui da poco risposato, con una moglie gelosissima Beatrice. L'intera faccenda dura solo 3 mesi, ma sono 3 mesi vissuti alla grande, 3 mesi di follia. I due si divorano con passione incandescente che culmina con una canzone che Serge scrive su espressa richiesta di Brigitte, che vuole la più bella canzone d'amore che si possa immaginare, e lui le dedica Je t'aime moi non plus. I due amanti incidono il brano una sera, il tecnico del suono giura che i sospiri della Bardot non sono simulati, si trattava proprio di godimento vero e proprio, ma dopo aver ascoltato la registrazione Brigitte capisce che insomma diffondere il nastro potrebbe fare indispettire leggermente Gunther Sachs, il marito, che è stato fin troppo paziente, così nega il consenso alla distribuzione della canzone. L'incisione originale rimane seppellita fino all'86, quando finalmente l'attrice dà il via alla pubblicazione. Ma nel frattempo Gainsbourg trova un'altra interprete, Je t'aime moi non plus, e diventa una delle canzoni d'amore più perturbanti di tutti i tempi, anche se io ne preferivo un'altra, quella che è arrivata dopo, che secondo me è ancora più sensuale, interpretata da una coppia di cui parleremo dopo, Gainsbourg e Jane Birkin, e la canzone era la Décadence. Oggi il protagonista della nostra puntata è un uomo amato e detestato, è non bello, anzi brutto, ma affascinante, che ha avuto ai suoi piedi le donne migliori nei 30 anni della Francia, prima degli anni 60, poi 70, poi 80. Sto parlando di Serge Gainsbourg. Un uomo complesso, un uomo che non conosceva le mezze misure, un uomo che aveva il suo habitat naturale, ovviamente, nella notte, che prendeva tutto quello che la notte gli poteva dare, però oltre all'amore prendeva anche la perdizione della strada, perché quello che vive nella notte per lui è ispirazione per i suoi testi, per le sue poesie di grande raffinatezza, di grande ironia e di grande cinismo. Non bisogna mai dimenticare che una delle qualità migliori per scrivere belle canzoni o fare dei bei libri è un pizzico ben dosato di cinismo. Però il tutto era assolutamente sempre in preda all'ebbrezza alcolica. Era sempre incredibilmente ubriaco, ma anche incredibilmente dignitoso, il che ai tempi era stupefacente, considerando che ingurgitava una grande quantità di cocktail. I barman ne avevano persino creato uno in suo onore, che si chiamava Titanic. Cocktail che si chiamava Titanic. Poi aveva la fortuna di bere e non ingrassare, che non è poco, insomma, perché se tu bevi e non ingrassi, allora i cocktail possono diventare anche 5 o 6, se può fa. Ma insomma, lui non è solo un musicista, un attore, un regista, un pittore, uno scrittore, è soprattutto un seduttore. E è afflitto per anni dalla percezione della sua bruttezza, lui scopre di piacere alle donne e ha la fortuna di incontrarne, di amarne di bellissime. Intanto, prima tra tutte, Brigitte Bardot, la donna di cui era innamorato tutto il mondo. E lui ha una torrida storia di sesso che si conclude dopo appena 3 mesi, anche perché Brigitte è sposata e, anche se tra le lacrime, decide di tornare dal marito, da Gunther Sachs. È una decisione che, secondo Régine, la famosa proprietaria di uno dei locali più in voga del momento, le costa enormemente. Credo che Serge abbia contato nella vita di Brigitte più di quanto lei abbia contato nella vita di Serge. Per lui era più il fatto che, nonostante la sua bruttezza, era riuscito a conquistare la donna che tutti desideravano. Eh sì, perché lui amava le donne, sì, ma tutte le donne, e il suo amore era in qualche modo estremizzato dal fatto che lui non ne aveva mai scelta una sola per davvero. Credo che si innamorasse di ognuna delle donne per le quali scriveva le canzoni, ma giusto per quel momento. Era il tipo da colpo di fulmine, colpi di fulmine che erano allo stesso tempo fatti di amore fisico e amore psicologico, ma che partivano sempre da un innamoramento artistico. E poi arriva il momento in cui il colpo di fulmine lascia il posto a un amore profondo e duraturo. Siamo nel 69. Lui si deve distrarre, insomma, dalla fine della relazione con la Bardot, anche perché dopo che sei stato con la Bardot, insomma, è abbastanza difficile dire adesso la sostituisco con. E intanto lui recita in un film, Slogan, in cui interpreta un regista che si innamora di una bella ragazza. All'inizio la protagonista doveva essere Marisa Berenson, la modella e attrice americana che più tardi reciterà nel Barry Lyndon di Stanley Kubrick. Ma all'ultimo momento il regista Pierre Grimblay decide di scegliere una giovane inglese che solo 3 anni prima ha recitato nel film Blow Up di Antonioni. La ragazza si chiama Jane Birkin, incarna perfettamente il prototipo della nuova moda londinese e, se vi interessa, incarna anche il mio prototipo, quella che Twiggy ha già portato al successo, quindi una donna molto magra, con gli occhioni dalle lunghe ciglia, la bocca sensuale, insieme innocente, è così perfetta che all'inizio lui la detesta e la tratta male fino a farle venire le lacrime. Ogni sera rientrava nel piccolo hotel Esmeralda, all'ombra di Notre Dame, e diceva: «Oh, quell'uomo è disgustoso». E io chiedevo: «Quale uomo?». E lei: «Oh, è quel Gainsbourg, l'attore del film». E ogni sera continuava a dire: «Ah, è terribile». Quanti grandi amori sono partiti così, dicendo «quello è disgustoso». Il fratello di Jane, Andrew Birkin, ricorda perfettamente l'antipatia della sorella per Serge, ma era un sentimento che sarebbe cambiato molto in fretta. Jane organizza una cena con Serge per appianare le cose e lo scopre diverso, sempre provocatore, ma anche insospettabilmente pudico e tenero. La stessa sera vanno insieme in hotel da lei, sono però troppo ubriachi per poter fare qualcosa. Il giorno dopo si rifaranno e da allora inizia una grande storia d'amore che durerà 12 anni. Ça, c'est l'histoire de Melody Nelson. Qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Il primo regalo di Serge a Jane è un usato sicuro, diciamo, perché era la canzone che aveva scritto per la Bardot, Je t'aime à non plus. Forse non è un gesto elegantissimo, però la Birkin capisce che le parole che Serge le sta offrendo non esprimono solo una grande passione carnale, ma un nuovo sentimento che diventerà giorno dopo giorno più saldo e profondo. E per questo accetta senza problemi il dono e incide il disco con Serge. Il brano ha un successo enorme, nonostante gli anatemi del Vaticano e il bando di molte emittenti, compresa la BBC, vende in tutto il mondo 6 milioni di copie e segna la fortuna della coppia, e secondo me era, come dire, un Viagra di quei tempi. All'inizio del nuovo decennio la coppia Gainsbourg-Birkin è super glam, diventa l'emblema degli anni 70 perché sono sregolati, psichedelici, le foto ce li mostrano felici, disinvolti, eleganti, ricchi, sfrontati. Lei indossa abiti minuscoli, trasparenti, che le lasciano scoperte le lunghe gambe e mostrano con noncuranza il seno, che peraltro lei aveva neanche la prima, la 0,5, e però aveva il suo perché proprio per quel motivo. Lui si compra una Rolls Royce e non possiede neanche la patente, però si vanta di averla acquistata solo per usarne il portacenere. I due diventano l'anima della vita notturna parigina, sono presenti a ogni festa, vanno in ogni locale. In Jane, Serge ha finalmente trovato la compagna giusta, colei che lo segue ovunque senza arretrare di fronte a nessuna delle sue intemperanze. Non gli piaceva andare nei ristoranti vuoti, quindi andavamo in quelli pieni di gente e noi eravamo gli attori principali. Tutti ci stavano intorno, ci davano i tavoli migliori. Adorava i barman, faceva il compagnone, aveva una grande stima del loro lavoro. Guardava come mischiavano i loro veleni, adorava starli a guardare. Eh sì, Jane Birkin vince laddove altre donne avevano fallito, cioè capisce che per avere un uomo del genere bisogna assecondarlo, e quindi sono anni di grandi progetti, di creatività che non conosce confini. Gainsbourg non delude mai i francesi, esce l'album L'Histoire di Melody Nelson, che narra la storia di una ragazzina di 15 anni sedotta dal protagonista. In copertina c'è una foto della Birkin con i jeans slacciati, ma questa volta non è per provocare, ma perché è in attesa di una figlia, Charlotte, che nasce nel 71 e che avrà anche lei un grande futuro. Nel 76 Gainsbourg si mette dietro alla macchina da presa per il suo primo film da regista, e il titolo rimanda alla sua canzone più famosa, Je t'aime moi non plus. La protagonista è sempre lei, Jane Birkin, nei panni di una ragazza androgina innamorata di un camionista gay, interpretato da Joe D'Alessandro, che era il protagonista di molti film di Andy Warhol. Scoppia un altro scandalo perché la protagonista accetta per amore di venire posseduta come se fosse un ragazzo, e la sodomia, insomma, non è proprio un argomento di tutti i giorni in quegli anni. Pedi! Pedi! Tu vas la fermer. Tu vas la fermer, ta gueule. Je t'aime moi non plus, c'était un rôle shakespearien. Je t'aime moi non plus è un ruolo shakespeariano. Mi ricordo che stavo girando un altro film, non ricordo quale, e intanto Serge mi aspettava a casa. Non aveva niente da fare, quindi scriveva cose meravigliose. E credo proprio che stesse scrivendo Je t'aime moi non plus. In ogni caso, quando mi raccontò che la protagonista si sarebbe girata e avrebbe detto «Sono un ragazzo», trovai l'idea di una bellezza incredibile. Incredibile. Ma proprio Jane, che fino adesso aveva seguito Serge in tutti i progetti più provocatori, inizia a patire le sue sregolatezze, soprattutto quando Gainsbourg, a forza di bere e fumare, ha il suo primo infarto a soli 45 anni. La Birkin è terrorizzata, non la tranquillizzano le uscite spiritose del compagno, che chiede agli infermieri dell'ambulanza di portarsi la sua coperta di Hermès perché quelle dell'ospedale non sono abbastanza belle. Dichiara di voler ridurre il rischio di un nuovo attacco di cuore aumentando il consumo di alcol e di sigarette. E così, dopo 12 anni di amore folle e un tentativo di suicidio, perché una volta si butta nella Sena Jane Birkin, nell'80, pur di non dover assistere all'annientamento del suo compagno, lei lo lascia per il regista Jacques Doillon. Mi ha incontrata che avevo 20 anni e forse dopo sono cambiata. Si cambia. E lui è sempre stato il maestro. Era un maestro. Era il tipo che aveva la tavola migliore, lo champagne migliore, quello che organizzava tutto. E io mi sono immersa in questo mondo. Solo che forse a 32 anni non sei più quella persona lì. Posso solo spiegarlo in questo modo. Ed è banale. È abbastanza banale. Come sai, sei assez banale, sei assez banale. Beh, per il grande seduttore Gainsbourg, che aveva fatto soffrire centinaia di donne, questa è la vera tragedia. Jane Birkin che lo lascia. Serge Gainsbourg sceglie di affrontare la perdita di Jane Birkin a modo suo, stanco delle critiche al suo lavoro, per esempio quando fa la versione reggae della Marseillaise, dell'inno nazionale francese, la intitola Aux armées, etc., abbandona il vecchio se stesso e si inventa una sorta di alter ego, negativo, cinico, decadente, Gainsbar, segno di una dissociazione degna di Mr. Hyde e del Dr. Jekyll. È sempre più spesso ubriaco, anche durante le sue partecipazioni televisive. Famosa è una sua uscita ai danni di una giovane allibita Whitney Houston, alla quale dice in diretta che vuole portarsela a letto nell'imbarazzo generale. Come un con, je vais au centre e je dis, oh, je vous prends une traduce, Serge Gainsbourg, e il lui dit immédiatement, I want to fuck her. Oui, alors, je vais vous traduire. Non. Il a dit ça, mais ça lui arrive de temps en temps. Beh, insomma, non è male, mi immagino una Barbara D'Urso, un Carlo Conti alle prese con uno che dice I want to fuck her in diretta televisiva. Ma non si limita a questo, per esempio in un'altra proverbiale diretta TV brucia una banconota da 500 franchi per protestare contro le tasse che comunque paga fino all'ultimo centesimo. Le dico cosa farò. Mi fermerò solo quando sarò arrivato al 74%. Ecco quello che mi resta. Perché la gente deve capire. E non sono soldi per i poveri. Sono per gli esperimenti nucleari, per cose così. Si rende conto che in questo modo fa arrabbiare molte persone? Oh beh, sono soldi miei. Ecco, ecco, questo è ciò che mi resta. È una provocazione forte, tenuto conto anche che è illegale bruciare i soldi in quasi tutto il mondo. L'ultima grande sfida al mondo è con una nuova canzone cantata in coppia con la figlia Charlotte, che all'epoca ha 12 anni. Il brano si intitola Lemon in Chest. Il videoclip dà scandalo perché mostra Charlotte stesa sul letto con accanto il padre a torso nudo. In un'intervista recente Charlotte parla dell'esperienza con grande tranquillità, rivelando un'estrema comprensione nei confronti di un padre così affascinante, un padre che lei ha amato tantissimo. Parlava dell'amore di un padre verso sua figlia e viceversa. E nella canzone era anche molto chiaro che si parlava dell'amore che non avremmo mai fatto. Posso capire come mai molte persone rimasero scioccate quando fu pubblicata, ma non mi sento imbarazzata o usata. Sapevo di cosa stavamo parlando. E mi piacque molto l'esperienza. And I love that experience. A salvarlo dalla totale dissoluzione non bastano un nuovo amore, una ragazza eurocinese che si chiama Bamboo, la nascita di un altro figlio, Lucien, detto Lulu. Gainsbourg si rintana sempre più nel suo appartamento parigino con le gitane e la bottiglia a portata di mano. È quasi cieco, la cirrosi alle porte, nonostante incida nuovi album e scriva ancora canzoni per interpreti giovani e del momento come Vanessa Paradise. È stanco e depresso. Quando arriva l'ennesimo infarto è da solo nell'appartamento e forse è più facile abbandonarsi al mal di cuore che lottare. Muore nel sonno a 62 anni. Émotion après l'annonce de la mort de Serge Gainsbourg hier soir. Gainsbourg, le provocateur, Gainsbourg, l'artiste qui rêvait d'être peintre, portrait d'un homme que l'on aimait ou que l'on détestait. Al funerale ci sono tutti, l'amica Catherine Deneuve legge il testo di una delle sue canzoni, François Mitterrand, il presidente allora in carica, lo paragona a poeti come Apollinaire e Baudelaire, e Gainsbourg è certamente stato un grande poeta. Ci sono storie di persone che hanno saputo darlo questo colpo d'ala. Gainsbourg è una di queste. È stato un grande, a tutta la mia ammirazione. Se volete che noi raccontiamo altre storie come questa, scriveteci. Abbiamo una pagina Facebook fantastica. Se no scrivete al Falco e il Gabbiano. Insomma, se volete, mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano. Un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi.